tutte le donne. Sei bello come un dio. Dopo di me, amori stupidi, povere amanti che hai, lo sai, improbabili ed inutili. Come fai? Solamente tu. Dimenticarti è difficile, yeah, eri un po' di più. Mi piaceva come amavi tu. Quanto sai fare l'uomo se non ci sono io? Ti consumi in un giorno nell'attesa di un addio. Dimenticare.